guardi, noi siamo italiani, facciamo il tifo per l'Italia, per l'economia e per le aziende italiane, ovviamente. No, io credo che questo decreto sia un decreto molto difensivo e non dà un buon esempio al libero mercato. La cosa che si avrebbe potuto fare era quella di far entrare i nuovi soci italiani con un progetto di, se vuole, acquisizione, quindi aumento di capitale, chiedo nuovi soldi per essere Parmalat la capofila di acquisizioni anche internazionali, riacquisendo per esempio anche quella che è la Parmalat Brasile che è stata venduta e poi è cresciuta, cioè chiamare attraverso aumento di capitali altri investitori anche nel settore, perché il settore alimentare è un settore dove l'Italia ha delle cose da dire, però ripeto, noi soffriamo di nanismo, in realtà a parte Barilla, Ferrero, che sono due esempi splendidi, ma c'è poca roba per quella che è la potenzialità dell'Italia, ma questo ripeto, noi soffriamo di crisi dimensionale, di nanismo.